Italia in controluce. Buon pomeriggio, oggi è il 19 maggio ed è Italia in controluce, vi parla Daniele Biacchiesi. Sono due edizioni quotidiane che vi raccontano ogni giorno l'Italia attraverso gli approfondimenti, le interviste, le inchieste, i reportage. Proseguiamo il viaggio nell'Italia che esce dall'ultima tornata elettorale. Dopo Piero Fassino, Vincenzo De Luca, Giuliano Pisapia, Michele Traversa, oggi incontriamo Virginio Merola, nuovo sindaco di Bologna. L'ho intervistato per noi, per Italia in controluce, Paolo Piacenza. Direi che il risultato è un bellissimo risultato per la città. Si potrà adesso lavorare per un nuovo inizio e anche il risultato del Movimento 5 Stelle è un risultato ottimo. Bugani ha dichiarato che è stanco di essere definito un partito di protesta, che loro hanno delle proposte, quindi io sono contento di poter confrontarmi nel merito delle proposte. Penso che ci sia stato un segnale di vero rinnovamento sia nel centro-sinistra che nell'esito elettorale, perché la destra ha confermato di non superare la soglia del 30% e la città può ripartire, insomma, sono contento. Lei ha sempre cavalcato questo tema del cambiamento e del rinnovamento. A Bologna cosa vuol dire cambiare? A Bologna cambiare significa intanto costruire davvero il Partito Democratico, come sta facendo il giovane Donini, il nostro segretario, e quindi lasciarsi da parte la logica degli ex, sapere che per fare un partito nuovo ci vuole un gruppo dirigente nuovo, ma soprattutto cambiare la logica degli ultimi 10 anni della città. La città ha vissuto di rendita, in particolare il suo ceto politico, sia di destra che di sinistra, ha preso molto di più di quello che ha dato. Adesso bisogna dare il segnale che le vere alleanze si devono fare con i cittadini attorno a un progetto civico, alla voglia di affrontare i problemi e risolverli. Ecco. C'è una lezione che il centro-sinistra nazionale può trarre da questa tornata di amministrative? Il tratto comune è che là dove si è avuto il coraggio di affidarsi con primarie vere alla selezione dei candidati, questo coraggio è stato premiato. Faccio notare che a Milano il Partito Democratico ha avuto un grande risultato e il fatto di aver sostenuto Pisapia ha dato i risultati sperati, così come a Bologna dove abbiamo fatto premiare Lire, ma anche a Torino dove Fassino ha avuto dei contrasti veri nel PD. Ecco. Quindi seguire con coraggio la strada democratica, ecco. Dico spesso che democratico non è un aggettivo, è il nostro sostantivo. Ecco, c'è anche una questione morale da affrontare che emerge anche, se vogliamo, da questa tornata elettorale. La vicenda di Napoli per certi versi è emblematica, però anche per Bologna, insomma, la questione morale è stata rilevante negli ultimi certo, tempi. Ecco, allora come si può affrontare più seriamente questa sfida? Si può affrontare seriamente selezionando bene i candidati. Noi abbiamo chiesto scusa alla città, lo stesso Del Bono non ha aspettato processi su questo, abbiamo segnato una differenza. Io penso che la responsabilità dei partiti sia nel selezionare bene i candidati. Poi sì, ci sono le leggi, ci sono le regole, ma un partito politico è parte della società civile, ecco, quindi deve riuscire a garantire questa sobrietà e questa serietà. Il caso di Napoli è emblematico in questo senso. Ecco. Come si può allora aprire il partito e impedire che la necessità di dover gestire il potere crei invece la casta? Non vorrei farla troppo semplice, ma si tratta intanto di selezionare gli incarichi, le nomine, come io farò, in base al merito e alle capacità. Quindi nominerò una commissione di garanti esterna all'amministrazione, a cui saranno sottoposti tutti i curriculum che saranno indirizzati al sindaco per quanto riguarda le nomine. E poi cercare appunto di dare l'esempio per tutta la città su questo. Merito e capacità è la vera eguaglianza che dobbiamo perseguire. Lei ora sindaco ha detto in campagna elettorale, lo ha ripetuto anche in queste ore, che punterà sulla concretezza, ma anche durante le primarie, anche sul grande progetto della città metropolitana. Allora come stanno insieme scelte concrete e grandi progetti per Bologna? Metropolitana, io penso che mi rivolgerò subito a tutti i sindaci per concordare due obiettivi concreti. Il primo è fare finalmente un regolamento tipo edilizio in modo da non stressare più i cittadini dell'area metropolitana e avere un regolamento omogeneo per i 60 comuni dell'area metropolitana in modo da semplificare la vita ai cittadini. La seconda proposta che farò è creare un'unica agenzia pubblica di riscossione delle entrate in modo da anche da questa via garantire che non ci siano siano tariffe o tasse troppo diverse da un comune all'altro, concordare con le associazioni economiche degli obiettivi di recupero fiscale e di ulteriore semplificazione e attuazione delle imposte. Cioè vorrei costruire un processo concreto che renda consapevoli i cittadini di cosa vuol dire questa nuova istituzione. Ecco, la concretezza è anche la questione del welfare municipale, che a Bologna è un po' una bandiera storica del centrosinistra bolognese, che oggi è stata messa anche a dura prova dalle scelte di bilancio un po' obbligate del commissario. Come si può reggere un bilancio comunale in ristrettezze con, per esempio, il rilancio degli asili o la sua proposta di togliere la tassa d'ingresso negli asili e nelle scuole dell'infanzia? Sì, è la tassa di iscrizione alle scuole dell'infanzia, che reputo ingiusta perché riguarda solo le scuole dell'infanzia comunali. Si tratta di una cifra modesta, sono 550.000 euro, credo che si possa fare un'opportuna variazione di bilancio per spalmarla su altre cifre. In generale io credo che dobbiamo difendere i nidi e il nostro welfare. Il modo migliore è innanzitutto convocare subito un tavolo con le associazioni economiche per avviare il piano strategico. Il primo obiettivo deve essere la ripresa economica della nostra città, per creare nuovo lavoro e nuova occupazione. Io poi ho sempre detto che anche se ci fosse un governo di centro-sinistra con questo debito pubblico, sicuramente per me la situazione sarebbe migliore per i comuni, ma dobbiamo comunque saper fare la nostra parte, quindi procedere celermente per spendere di meno per la gestione, spendere di più per i cittadini, ad esempio unificando tre attuali aziende di servizi alla persona, trasformarla rapidamente in un'unica azienda. Poi affrontare il tema del nostro patrimonio, che è un patrimonio rilevante, sia quello comunale che quello delle ASP, per utilizzarlo per finanziare la costruzione di nuove imprese e nuove opportunità di lavoro. E anche sulle partecipate, quell'atteggiamento pragmatico che lei richiamava, cioè bisogna valutare caso per caso, dove è opportuno dismettere per investire in opere pubbliche e servizi lo faremo. Da nord a sud, Jacopo Mattano ha incontrato il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena. Occorre lavorare su due livelli, bisogna affrontare le emergenze, riattivare l'economia per quanto riguarda Reggio Calabria, che significa riprendere i lavori che sono in corso, che sono molto importanti, sono strategici, e così dare anche un po' di sollievo alle imprese. Nel contempo bisogna muoversi per efficientare l'apparato burocratico, occorre modernizzarlo, occorre cominciare un percorso anche di rinnovamento, perché con la prospettiva del federalismo occorre cambiare radicalmente l'approccio e il modo di gestire la cosa pubblica. A proposito di federalismo, Reggio Calabria si avvia a diventare città metropolitana, come farete ad attuarla? Insieme alla provincia bisogna cominciare questo percorso, un percorso molto complesso, istituzionale, culturale. Bisogna spiegare alla gente cosa significa la città metropolitana, cosa significa mettersi insieme, bisogna governare differenze culturali e territoriali che nella nostra provincia sono abbastanza evidenti, per proseguire il programma di sviluppo turistico della città, perché i positivi risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano che la vocazione turistica di Reggio può trasformarsi in un formidabile volano di sviluppo, e quindi su questo che dobbiamo operare. Ecco, proprio su questo le chiedo come farà, diciamo così, ad affrontare gli investimenti a fronte di quello che è considerato un bilancio di a dir poco problematico. L'opposizione parla di un buco di 330 milioni di euro. Questo è un numero assolutamente fantasioso. Ecco, quali sono i numeri? I numeri ovviamente li potrò accertare una volta che sarò ufficialmente sindaco della città. Dall'esame che io ho fatto in questi mesi, questo numero è assolutamente fuori dal mondo, ma in ogni caso lei sa bene che le risorse per gli investimenti e quelli per la spesa corrente sono due cose completamente differenti, ovviamente. E noi, per esempio, se parliamo di turismo sull'aeroporto, le fonti finanziarie sono già state individuate, i finanziamenti sono disponibili, occorre soltanto fare una scelta coraggiosa gestionale e attrarre professionalità idonee a far decollare il nostro aeroporto, che sia intanto l'aeroporto dello Stretto, perché è condizione indispensabile. Ecco, affrontiamo ora invece il grande tema dell''ndrangheta, regina a terra di intrecci tra la politica e le cosche, e gli ultimi arresti pochi giorni fa nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, e soprattutto a Reggio Calabria c'è questa indagine sulla Multiservizi, che è una società mista, in cui sono stati effettuati nell'aprile scorso 26 arresti. La partita della legalità è la partita più importante che la città si gioca. Finalmente lo Stato ha dato tangibile dimostrazione di voler contrastare la criminalità organizzata, che rappresenta il principale problema, e su questo noi dobbiamo intanto agevolare le attività delle associazioni che sono sorte in questi ultimi anni, e soprattutto come istituzione dobbiamo agevolare questo percorso che la magistratura e le forze dell'ordine hanno intrapreso. Bisogna contrastare l'occupazione abusiva del suolo pubblico, bisogna potenziare i sistemi di sicurezza, la videosorveglianza, in ogni caso è l'obiettivo principale, quindi una sinergia tra tutte le istituzioni presenti. Noi faremo la nostra parte perché questo è un momento importante della città e dobbiamo cogliere. Sulle società miste, lei ha parlato della multiservizi, sa bene che il sistema delle società miste in Italia è stato caratterizzato da un momento di crisi dopo i primi anni di funzionamento. Occorre rivedere i contratti di servizio. Sulle società miste ci sarà da intervenire e sarà uno degli interventi prioritari che mi riprometto di fare. L'ultima domanda che le faccio: qual è il primo provvedimento che firmerà da sindaco? L'impegno principale è quello di dare di nuovo un poco di ossigeno all'economia e soprattutto dare avvio a quei provvedimenti di bilancio che diano un po' di ossigeno alle casse comunali. Già abbiamo individuato 3 provvedimenti, il primo tra tutti la dismissione del patrimonio edilizio dell'ente, che ha delle funzioni sociali, perché metteremo nelle condizioni tanti cittadini che da diversi anni abitano nelle case del patrimonio edilizio di poter diventare proprietari, e nel contempo daremo un contributo dalle casse comunali. Italia in Controluce, seconda edizione, cercateci su Facebook, Twitter, torniamo domani 6:30 Radio 24.